Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che l'odore di griglia fa percepire le stanze più piccole, mentre quello di mela o di cetriolo le fa sembrare più grandi, e che la fragranza del pane appena sfornato invoglia a comprare una casa. Vendere di più utilizzando i profumi, questo è l'obiettivo del marketing olfattivo, una strategia in evidenza per gli spazi commerciali sempre più a caccia di veri e propri acquisti di naso. Oggi parliamo anche del silent branding, niente logo, niente claim, i brand puntano a farsi riconoscere attraverso i contenuti visuali. E poi focus sui trend dedicato ai nuovi paesaggi urbani, ai nuovi modi di esplorare e vivere le città, riflessione finale dedicata come sempre invece alle parole chiave del marketing e della comunicazione. Quella di questa settimana è discrezione, che per le aziende significa passare dalla visibilità alla credibilità. Salite! Abbiamo trovato il maggiordomo. È nascosto nelle remote colline vicino al picco Gabelmeister. Lo abbiamo convinto a incontrarvi domani a mezzogiorno all'osservatorio sulla vetta. Non ditelo a nessuno, lui spiegherà tutto. Il treno parte fra 4 minuti e mezzo. Ecco i biglietti. Oh, terza classe. Era tutto prenotato, ma il controllore è stato sommelier al vecchio Versailles. Ha chiesto qualche favore. Queste vi serviranno per la carrozza ristorante. Un'ultima cosa. L'air de panache. Avevano solo la bottiglietta. Anche il cinema riscopre il potere dell'olfatto per ricreare le atmosfere belle époque di Grand Budapest Hotel. Il regista Wes Anderson ha inserito nella sceneggiatura, quasi fosse un personaggio, l'air de panache, la fragranza di cui il protagonista, il concierge Monsieur Gustave, non può fare a meno. Non esce mai dalla camera dell'albergo senza essersene spruzzato un po' sugli abiti e sulla pelle. Una fragranza, pensate, che il regista, nella sua fedele ricostruzione dell'atmosfera del tempo, non voleva fosse soltanto immaginaria, ma avesse invece una piramide olfattiva e un flacone reali, realizzati da un famoso naso, un esperto di fragranze. Una professione questa sempre più richiesta, come ci conferma Laura Tonatto, uno dei nasi più famosi al mondo, creatrice di profumi per celebrities e regine, compresa la regina Elisabetta, e fragranze ispirate ad opere d'arte. L'ha intervistata per noi, a margine della rassegna L'Essenziale, Miriam Korjat. Un naso è una persona che ha avuto un grande dono nella vita, e quello di sentire approfonditamente quello che ci circonda, sotto il profilo olfattivo ovviamente. E di questo dono è riuscito a farne un lavoro. Questo lavoro si può fare studiando, prima di tutto. Ci sono molte scuole che insegnano questo percorso. In Italia, per esempio, c'è l'Università di Cosmetologia a Ferrara. Dopo questi studi, quindi, bisogna allenare il naso, esattamente come fanno gli atleti. C'è un allenamento quotidiano che serve a riconoscere materie prime di ottima qualità, di sintesi, naturali, di qualsiasi genere, per poi catalogarle e utilizzarle al momento della creazione. Quali sono quindi le competenze specifiche che un naso deve avere? Direi alcune oggettive che devono avere tutti, quindi conoscere quali sono le normative per un prodotto cosmetico. Poi ci sono competenze soggettive, e nel mio caso particolare io ho delle passioni da sempre, che sono l'arte, la letteratura, il cinema, la pittura, e in questi settori con specialisti ho affrontato il modo di profumare opere, libri, quadri e film. Il quadro di Caravaggio, il suo allenatore di liuto, conservato al Museo Ermitage, è il più grande esempio di pittura che descrive i cinque sensi. E io ho avuto la grande fortuna di poter conoscere questo quadro e di creare il profumo che è stato posto proprio di fronte al quadro nel Museo Ermitage a San Pietroburgo. Come svolgi la tua ricerca per creare un profumo? Beh, intanto io ho sempre basato il mio lavoro sulla ricerca di materie prime straordinarie. Una di queste materie prime è la rosa di Taif, che ho avuto modo di conoscere grazie alle principesse dell'Arabia Saudita. Taif è un piccolissimo paese del Regno Saudita dove si coltiva solo per il re la rosa di Taif, appunto, una rosa che ha una tonalità mielata, molto, molto raffinata, se ne ottengono solo 16 chili all'anno e viene prodotta solo per il re. La personalizzazione delle fragranze, hai parlato di principi sauditi, hai confezionato un profumo per la regina Elisabetta e qualcosa riservato a re e regine, cioè al mercato del lusso. Io non ho mai parlato di lusso nel mio lavoro, anzi è una parola che proprio non mi piace, è una definizione che non amo. Il lusso è quello di capire quale grande importanza hanno i profumi nella nostra esistenza. Il naso è stato posizionato tra gli occhi e la bocca proprio per amplificare il gusto e la vista. Se noi non lo utilizziamo, perdiamo una parte fondamentale della nostra esistenza. Riconoscere l'importanza di questa cosa non è un lusso nel senso costoso del termine e economico del termine, è un lusso esistenziale. L'olfatto è l'unico tra i cinque sensi, dicono gli esperti, che arriva direttamente al cervello senza intermediari, tanto che la memoria olfattiva è molto più potente di quella visiva. Secondo alcune ricerche, i negozi ben profumati hanno vendite maggiori del 15-20%. L'olfatto è in primo piano come tendenza non solo nel retail, ma anche nella ristorazione con le cene olfattive, ad esempio, in cui i piatti sono proposti in abbinamento ad alcune fragranze che, una volta annusate, esaltano il sapore dei singoli ingredienti. Marcella Bartoletti è consulente strategico di fragranze, si è occupata dell'ideazione e della creazione delle profumazioni di prodotti personal care per multinazionali del calibro di Unilever. È un lavoro assolutamente complicato e sfidante. Ci sono tantissimi studi che vengono fatti sulle abitudini del consumatore, sulle sue preferenze in funzione degli stati o dei mercati nei quali si vuole lanciare questo prodotto, e poi si sviluppano queste fragranze in linea con gli stessi. Esiste la possibilità di verificare le preferenze dei consumatori, il trend che sono presenti in quel momento tramite ricerche di mercato. Bisogna conoscere non solo quello che dicevo prima, quindi le abitudini, le aspettative del consumatore, ma bisogna anche fare in modo che tutto ciò sia coerente con il marchio e il prodotto che vogliamo posizionare sul mercato. Anche nelle profumazioni dei prodotti esistono delle tendenze? Sì, le tendenze sono sempre in evoluzione, possono variare molto velocemente, possono variare perché il consumatore sta apprezzando un nuovo lancio sul mercato di un prodotto che improvvisamente sconvolge il mercato stesso e quindi determinare un nuovo gusto e delle nuove tendenze, ma si può lanciare qualcosa che sia assolutamente innovativo, quindi creare un nuovo trend. Poi tutto il resto magari invece se ci seguirà, se poi il prodotto sarà un prodotto di una fragranza di successo sul mercato. Negli ultimi anni è emerso il fenomeno del marketing olfattivo, cioè l'utilizzo dei profumi a scopi commerciali, nel retail, nella distribuzione, negli spazi pubblici. È una frontiera che promette degli sviluppi. È una frontiera che io ritengo sia estremamente affascinante. Il riuscire a ricreare all'interno di ambienti delle profumazioni che siano coerenti con quello che il locale stesso vuole rappresentare è una formula vincente, perché poi il consumatore, una volta che ritornerà nel locale o da lontano vorrà ricordare il locale, lo ricorderà con l'emozione anche legata al profumo stesso. Vogliamo creare un ambiente rilassante, possiamo crearlo e facilitarlo attraverso non solo i colori e l'arredamento di un negozio, ma anche attraverso il profumo che facciamo emanare da dei diffusori all'interno del negozio stesso. Siamo invece in un ambiente stimolante, nuovamente, un locale notturno o un negozio che venda abbigliamento per giovani, benissimo, possiamo ricrearlo attraverso una comunicazione olfattiva che sia coerente con tutto ciò. Quali ricerche bisogna fare per trovare una fragranza che riesca ad essere identificata con un brand? La firma olfattiva è uno degli esercizi più difficili da fare, perché creare qualcosa che sia semplicemente piacevole olfattivamente parlando è un esercizio non così complicato. Creare qualcosa che sia vincente e perfettamente coerente con un marchio, che quindi lo rappresenti in tutte le sue forme, è una cosa estremamente difficile. Il lavoro da fare è capire appieno l'eredità del marchio stesso, capire quindi che cosa quel marchio vuole comunicare, qual è il suo target in termini di consumatore, fare in modo che il profumo sia coerente con tutto questo. Cambiamo argomento. Ricordate qual è stata la parola del 2014 più usata nel mondo? La notizia dei primi giorni di gennaio. Non si tratta di una parola ma di un simbolo, un emoticon, il cuoricino per la precisione. Lo scorso anno se ne sono scambiati più di 340 milioni. E poi sapete che ogni giorno il nostro cervello riceve il quintuplo delle informazioni rispetto agli anni 80. Uno dei motivi, dicono gli esperti, che spiega il boom delle infografiche sul web. E poi ancora, avete presente l'ultima campagna di affissioni McDonald's? Una campagna solo grafica, senza logo, senza claim, solo le icone dei prodotti simbolo. Una campagna che ora, tra l'altro, ha dato origine anche a una collezione di capi d'abbigliamento in limited edition. Tutte notizie che abbiamo messo insieme sotto un'unica domanda: quanto contano oggi i contenuti visuali in comunicazione? Sono il segno di un nuovo modo di fare branding? Lo abbiamo chiesto a Silvia Barbieri di Future Brand. I contenuti visuali contano tantissimo, contano sempre di più. La campagna di McDonald's appena citata è una campagna coraggiosissima, perché è una campagna che ha la forza di prendere dei prodotti che sono delle icone che tutti riconosciamo e le traduce in icone grafiche, andando oltre quella necessità di rappresentare il cibo attraverso, diciamo, la fotografia e quindi anche la necessità di stimolare la colina in bocca, per farne dei veri e propri simboli iconici in grado di sintetizzare quella che è l'offerta di McDonald's. Direi che è una campagna che segue moltissimo i nuovi linguaggi di una certa cultura hipster, che proprio usa la grafica come sintesi di comunicazione. Addirittura sparisce il logo, è comunque piccolissimo, quasi non si vede nelle affissioni. Anche questa credo che sia una scelta estremamente coraggiosa, compiuta da McDonald's, una sorta di operazione empatia per andare al di là di quello che è un percepito oggi di eccesso di standardizzazione che produce noia da una parte e dall'altra di eccesso di dominanza che viene ritenuta oggi come un segno di mancanza di autenticità e umanità. Per cogliere quel logo bisogna davvero avvicinarsi alla fissione, perché è piccolissimo, e credo che anche questo inaugurerà un nuovo modo di fare branding che nel mondo del lusso abbiamo già visto da parecchi anni, soprattutto per le marche, diciamo, più raffinate, che si rivolgono a un pubblico con un ottimo livello di educazione, di comunicazione. Per uno per tutti, Martin Margiela, che già da 20 anni firma i suoi prodotti con un'etichetta bianca. La cosa che sorprende è che oggi questa tendenza a parlare quindi con dei codici da esperti arriva anche per un brand così di massa come McDonald's, e quindi la volontà in qualche modo di usare ocromie, grafiche, forme per trasferire una presenza di marca e fare un branding che noi chiamiamo silenzioso. Il branding c'è ma non urla. Silent branding, perché ovviamente la presenza del brand c'è tutta, c'è perché tutti quelli che hanno notato questa affissione si sono ovviamente lasciati sorprendere e coinvolgere, che era esattamente l'obiettivo della campagna. La presenza di McDonald's nel caso specifico è garantita proprio da questa iconicità dei prodotti, ma il logo urlato non esiste più. Facciamo qualche altro esempio: le shopping bag della Rinascente, del Department Store di Milano, dove non c'è assolutamente il logo, c'è solo la scritta Milano. E oggi ormai tutti noi che viviamo a Milano sappiamo che quelle shopping bag rimandano a quel department store. Starbucks sui suoi bicchieri ha preso il logo, l'ha allargato, ha tolto la scritta, ha lasciato solo la sirena. Tutti sanno che quella sirena verde è Starbucks, ma la scritta dichiarata è sparita. Credo che sia un bisogno, tanto più oggi un marchio è globale dominante e tanto più avrà bisogno nell'immediato futuro di rivedere il suo modo di fare branding per non risultare troppo dominante. Essere e avere. Quasi nessuno viene qua sotto, a meno che ovvio non ci sia un problema. La gente ragiona così, a nessuno interessa come funziona una cosa finché funziona. A me questo posto piace. E mi piace ricordare che la città riesce a sopravvivere grazie a queste macchine. Queste macchine ci tengono tutti in vita, mentre altre macchine vengono a distruggerci. Qua sotto a volte ripenso a tutti quelli ancora collegati a Matrix, e quando guardo queste macchine io... non posso non considerare che in un certo senso noi siamo collegati a loro. Focus sui trend. Nel 2050 oltre il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città. Nei prossimi decenni, la stima è dell'ONU, il numero degli abitanti delle città crescerà di oltre, pensate, 2,5 miliardi. Gestire le aree urbane, dicono gli esperti, diventerà la principale sfida del XXI secolo. Ecco perché le città stanno diventando sempre di più veri e propri laboratori di innovazione anche sociale, alla ricerca di nuovi modelli di consumo, di vita e di pensiero. Sono i segnali di un futuro da cogliere già ora. Oggi vi raccontiamo quelli individuati per noi, come sempre, dai ricercatori di Future Concept Lab. Sabrina Donzelli, ben ritrovata, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, un saluto a tutti. Dove ci porti per iniziare, Sabrina? Partirei da New York con un progetto molto interessante che ci porta proprio per le strade della città e ci porta a guardare i muri e l'arte, sia improvvisata sia di artisti di graffiti. È un progetto che ci porta a affinare la nostra esperienza visiva di quello che ci attorno e anche di appropriarci con orgoglio di questi segni. Cosa succede con questo progetto? Si chiama Walmart, no? Quindi giocando anche con il nome della grande catena di supermercati, quindi sul consumo, cosa si consuma, cosa si può acquistare, cosa resta nostro. Praticamente questa agenzia di creativi online ha lanciato questa esperienza di acquisto di uno spazio come fosse un quadro, una galleria di quadri, ma la base è quella di un segno sul muro, un segno, una foto, un graffito o un gesto, no? Quindi anche il vandalismo può risultare un segno d'arte. La persona che acquista online acquista e si appropria di un quadro, gli viene, come dire, donata una cornice dorata con una targhetta con il proprio nome, quindi ha acquistato uno spazio artistico in città e la stessa città diventa galleria d'arte. Quindi potremmo dire chi vandalizza chi, è una provocazione, un gioco, ma anche una piacevole scoperta. Un altro progetto che condivido con voi affina invece l'ascolto della città, dei luoghi della città, dei movimenti della vita della città. Si chiama Sound City Project. Anche qua abbiamo un bel sito con questo nome a cui fa riferimento. È un'esperienza proprio audiovisiva per ascoltare tutte le aree urbane. Per adesso ci sono solo alcune città degli Stati Uniti, fra le quali New York, San Francisco, poi per la Norvegia c'è Oslo, Bergen, Stoccolma, per la Svezia. Una mappatura che si sta ampliando. Ci sono delle bellissime immagini in bianco e nero di alcuni luoghi specifici di queste città, fra l'altro proprio si può navigare scoprendo delle vie, degli angoli, quindi c'è questa immersione online, ma si è riproiettati proprio nello spazio urbano e a ogni immagine corrispondono dei suoni, delle voci, dei rumori che sono proprio quelli di una piazza specifica. specifica di un angolo più silenzioso, più rumoroso, più vivo in qualche modo, e quindi è proprio un universo da scoprire e da, come dire, da risaltare in qualche modo nella nostra esperienza quotidiana. Molti dei progetti che voi state, per così dire, mappando per questa trasformazione Sabrina passano da nuovi modi di intendere lo spazio pubblico, nel senso che cambia proprio l'utilizzo delle aree pubbliche. Sì, e potrei dirti che a volte basta veramente poco per cambiare anche la funzione, per cambiare la relazione anche pratica con la città e con gli spazi pubblici, quindi laddove il pubblico e il privato si connettono sempre più. Anche qua qualche esempio, partiamo dalla Germania, da Dortmund, con un progetto che ha la forma di una piccola isola di roccia nel mezzo della piazza principale della città. In effetti è una scultura ipertecnologica che fornisce stazioni di ricarica per computer portatili e cellulari, ma anche accesso gratuito Wi-Fi. Viene utilizzata una turbina eolica con pannelli solari per creare energia verde che alimenta le prese nella roccia, e le persone possono sedersi, rilassarsi sopra questa roccia, ma anche caricare i propri dispositivi o addirittura lasciare le piccole armadietti nascosti nella struttura. È stato un progetto sviluppato da 4 artisti con il desiderio di trasformare lo spazio pubblico inutilizzato in questo caso e alimentarlo con fonti di energia rinnovabile. Sempre la trasformazione della città e come dire, il dialogo con le persone ci porta a un altro caso, San Francisco. Questo è un caso che è stato lanciato nel 2010 ma che ha un successo crescente, quindi andando anche oltre alla città di San Francisco. Si chiama The Parklet Program, l'idea di trovare dei piccoli parcheggi intelligenti e creativi, parcheggi fra virgolette, per le persone, occupando lo spazio normalmente utilizzato dalle auto. Quindi per quello che è l'ingombro, diciamo, di una o due auto parcheggiate, viene ricreato con delle panchine, con delle aree di sosta, delle aree di condivisione, tavoli, un piccolo angolo, ma anche con il verde sicuramente, un piccolo angolo dove le persone possono ritrovarsi, sedersi e conversare, non legato a bar, a ristoranti o a strutture commerciali, ma semplicemente una micro area di sosta. Sicuramente un modo per disincentivare l'utilizzo dell'auto, proprio facendo vedere che cosa è possibile fare in quello spazio, quale vuoto è possibile riempire a livello anche di socializzazione nelle città, di recupero delle relazioni, no? Certo, fra l'altro anche questa idea riflette la diversità e la creatività delle persone e anche delle organizzazioni che sempre di più stanno iniziando a promuovere questa modalità, questo tipo di spazi. Sempre nell'area della reinvenzione, riutilizzo e trasformazione degli spazi, andiamo in Australia, a Sydney. In questo caso è un esempio, diciamo, di consumo, è un caffè, un bar, si chiama Reformatory Caffeine Lab ed è nato dall'idea di un coltivatore di caffè colombiano, quarta generazione di coltivatore di caffè, che ha costruito e ha creato questo caffè in un piccolo spazio di passaggio, come un tunnel, diciamo, è un tunnel di passaggio cittadino convertito, quindi non ci sono posti a sedere, gli ordini da sport dominano la scena e il tutto è in un'atmosfera industriale, scura, quindi pareti scure con illustrazioni a fumetti dove il protagonista è Joker, per questa idea di un laboratorio di caffeine. Le città del futuro avranno sia un'anima tecnologica che rurale, questa convivenza delle due ispirazioni si ritrova in molti dei progetti che si vedono, è così? Sì, fra l'altro non sono due dimensioni staccate, spesso dialogano fra loro, anzi dialogano nell'ottica di una sostenibilità su più fronti. Vediamo un esempio altamente tecnologico e un esempio più vicino a noi, anche su Milano, dove la natura è al primo piano. Partiamo dalla Cina a Shanghai, un condominio e delle ville realizzate con stampa 3D, costruite utilizzando una stampante di 3D ad alta 20 metri, larga 33 e lunga 132, numeri impressionanti. Milano non possiamo non parlare del Bosco Verticale, il progetto di Stefano Boeri nel quartiere Porta Nuova, che proprio il novembre scorso ha vinto un premio internazionale, International High Rise Award, e che quindi lo rende anche a livello internazionale un progetto di grandissimo rilievo. Ecco, il Bosco Verticale è veramente un'idea, una nuova idea di grattacielo in cui gli alberi umani convivono, e si può dire anche dalle parole di Boeri che è il primo esempio al mondo di una torre che arricchisce di biodiversità vegetale e faunistica la città che lo accoglie. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. A presto. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale dedicata alle parole chiave del marketing e della comunicazione in compagnia, come sempre, del sociologo Francesco Morace. Ben trovato Francesco. Ben trovata a te Maria Luisa, a tutti i radioascoltatori. Il tema di oggi. Il tema di oggi è discrezione, è una parola che fa un po' impressione anche solo parlarne, perché sembrava davvero in disuso negli ultimi anni, ma oggi sia i consumatori che i propositori di immaginario, devo dire che ci stanno lavorando tanto. Sicuramente l'elezione del nuovo presidente della Repubblica Mattarella ha portato un'attenzione particolare su questi valori. La discrezione non è né tristezza né austerità, la discrezione è rigore e anche credibilità, questo passaggio dalla visibilità alla credibilità di cui abbiamo parlato tante volte. Penso ad esempio alla concretezza di un personaggio come Michele Ferrero, mancato proprio pochi giorni fa, che nell'ombra ha costruito un impero molto ancorato al territorio, però riconosciuto a livello internazionale come innovativo. Assolutamente, infatti la discrezione ci porta davvero a ragionare sulla qualità profonda delle cose, sull'autenticità, rimanendo magari dietro le quinte, ecco, una cosa a cui non eravamo francamente più abituati. Diciamo che non dobbiamo ragionare per contrapposizioni. Pensiamo all'ultimo Festival di Sanremo, l'importanza comunque dello spettacolo, della canzone, della musica, ma viene apprezzata la professionalità di chi lo pensa e poi di chi lo realizza. Quindi la visibilità da sola non basta, bisogna mettere in scena la propria capacità di fare. E i numeri hanno dato ragione, perché parliamo di ascolti, parliamo di consumi, poi alla fine sono i numeri, no, che contano. Sì, è il miglior Sanremo degli ultimi 10 anni, quindi da questo punto di vista direi che anche per le nostre aziende e per gli esperti che ragionano su questi temi, io credo che riflettere su questa idea che la competenza è al centro della nostra attività possa davvero aiutare per il futuro. Grazie, a domenica prossima. Grazie a te. E grazie in regia a Paolo Corleone. Resta solo il tempo per darvi appuntamento a domenica prossima alle 15. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.